Con Ciro di Rucasa 11:30 per presentare il raduno intergalattico di Genuino Clandestino a Mirabella e Clano, provincia di Avellino, dal 13 al 15 maggio 2022. Ben trovato. Ciao, buongiorno. Partiamo dalla realtà Genuino Clandestino, per chi non la conoscesse, come la presenteresti? È una variegata compagine di persone, da strutture personali, strutture tra virgolette giuridiche, tra collettivi, tra reti. Diciamo che puoi trovare tutto e di più con un unico comune denominatore, che è quello di fare le cose seguendo dei criteri di rispetto della natura, rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Anche se questa cosa alle volte confligge con una serie di gerarchie amministrative e di implicazioni normative che sono state studiate non tanto per facilitare quello che è il mondo agricolo, ma per fare strada e aprire mercati all'agroindustria. Quindi diciamo che la potremmo classificare come una galassia di elementi che si stanno muovendo sul territorio italiano e non, per preservare quello che è la genuinità delle produzioni locali e le autoproduzioni, e sono costretti, tra virgolette, a farlo in clandestinità, perché di fatto lo facciamo pubblicamente, rivendichiamo politicamente queste nostre trasformazioni e produzioni, solo che giustamente qualcuno ci dice che siamo fuori norma, e allora a quel punto sei clandestino. Come si arriva a questo raduno intergalattico? Ci arriviamo un po' sfasciati, cioè nel senso che dopo 2 anni di Covid e anche un po' di maretta generale si arriva al secondo raduno in Campania, perché il primo l'abbiamo fatto a novembre. Ci arriviamo con la volontà di riprendere il vecchio schemino con i 2 giorni di plenaria e il terzo di un grande mercato con una denuncia delle tematiche che vi dicevo prima. Quindi ci arriviamo abbastanza carichi, ma anche abbastanza un po' timorosi del fatto che comunque alle spalle ci sono questi 2 anni che hanno minato e hanno in qualche maniera affossato un po' le relazioni sociali, soprattutto con la gente. Come sarà articolato questo incontro? Quali sono i temi portanti? Il venerdì e il sabato, come dicevo già prima, prettamente momenti di incontro, dibattito, tra virgolette, pubblico, nel senso che comunque sono momenti aperti a tutti. Noi abbiamo praticamente dei tavoli di lavoro su cui sviluppiamo delle parole chiavi, dalla garanzia partecipata alla rete delle reti, alla transazione ecologica, alla falsa transazione ecologica, alle tecniche di produzione. Quindi ci sono questi 4-5 tavoli tematici che vengono sviluppati prima, quindi ci sta chi fa un lavoro di preparazione ai tavoli, ma ci sono anche dei gruppi di lavoro che si incontrano prima, e poi principalmente sabato, perché venerdì sarà di accoglienza, e quindi praticamente venerdì ci sarà il momento dell'accoglienza delle persone che arrivano da lontano. E ci sarà sì un momento un po' più politico il venerdì sera, dove si farà una presentazione anche di quello che è un po' la situazione nell'entroterra irpina. Poi dopo spieghiamo anche perché abbiamo scelto Irpinia. E quindi venerdì sarà praticamente accoglienza, introduzione al contesto dove si farà l'incontro. Il sabato invece ci saranno gli incontri, tavoli specifici, e poi ci sarà l'assemblea generale. Domenica mattina invece, durante il mercato, probabilmente faremo anche dei momenti sia di teatro che di azioni in piazza, dove porteremo in maniera forte questa questione della falsa transazione ecologica. Qua non stiamo andando da nessuna parte a livello ecologico, anzi al contrario, stanno finanziando cose che non vanno per nulla in linea con quello che è una transizione ecologica delle produzioni. Come funzionano gli appuntamenti tra eventi territoriali e nazionali? Gli eventi nazionali principalmente sono tra 1 e 2, a parte dei momenti un po' più tecnici che la rete si può chiamare, la rete nazionale. Noi non abbiamo una vera e propria struttura organizzativa se non quella della rete stessa. Quindi quando c'è all'interno della rete un bisogno, lo si esprime e sulla base di questo bisogno si organizza. Quindi tra uno e l'altro momento nazionale ci sono questi referenti che si scelgono in assemblea generale volta per volta, che cercano di coordinare poi i tavoli e le tematiche. Con invece gli eventi locali, ognuno poi ha la propria strutturazione locale. Nel caso nostro specifico campano, stiamo testando la possibilità di fare 1 o 2 mercatini mensili, con 20 riunioni annesse, in cui poi andiamo a discutere le tematiche dei tavoli. non c'è molto collegamento tra gli eventi locali e l'evento nazionale, e non sul lavoro politico. Per quanto riguarda invece le pratiche, la conduzione delle relazioni tra locale e nazionale, non c'è una vera e propria scaletta o transizione da una parte all'altra. Mi dicevi prima della scelta dell'Irpinia, come mai? Dobbiamo voluto caratterizzarlo fortemente questo genio clandestino qui, andando nell'entroterra, quindi uscendo un po' dallo schemino di andare sulla grande città che ha una sua risonanza di per sé. Quindi siamo andati nell'entroterra e nel mondo agricolo, l'Irpinia, e anche il mercato abbiamo scelto di farlo in periferia, abbiamo scelto di farlo a Scampia, quindi noi domenica mattina faremo questa carovana di mercatari, tra virgolette, di genio clandestino che dall'Irpinia andrà su Napoli, ma non anche qui, non Napoli città, Napoli centro storico, Napoli turistica, ma a Scampia, dove c'è un altro spazio che si chiama il Gridas, in cui andremo a fare sostegno a loro e sostegno un po' alla periferia napoletana, facendo questa azione sì di mercato, ma comunque in generale i nostri mercati sono sempre qualcosa che va ben oltre la vendita diretta del prodotto, ma ci sta tutto il messaggio politico, la divulgazione, ci saranno poi dei momenti teatrali, dei momenti di condivisione pubblica di questa questione della transizione ecologica. Quindi la scelta è andare all'interno e andare in periferia con le nostre tematiche. Per chi arriva da fuori, come funzionerà l'accoglienza? Ci sono campeggi o strutture? Ci sta Rasecale, che è questo spazio, questa realtà agricola che ospita di due giorni, il venerdì e il sabato, che ha messo a disposizione le proprie terre, quindi ha adibito uno spazio per fare campeggio, un piccolo spazio dove ci possono essere camper, e in più, sempre nell'ottica dell'albergo diffuso, ci sono resi contatti con alcune realtà, a parte B&B, ma anche strutture private di singole persone che hanno messo a disposizione eventualmente posti letto, ecco, per chi ha delle esigenze che vanno oltre quello che può essere l'ipotesi della tenda o che per chi arriva in camper. Quindi chi vuole può contattare tramite il sito di Genio Clandestino, dove stanno un po' di riferimenti, c'è una lista di referenze. Poi sulla rete, che noi abbiamo questa email list nazionale, abbiamo veicolato un questionario in cui abbiamo chiesto di esprimere un po' tutte le esigenze, non soltanto per dormire, ma anche alimentari generali, diciamo di intolleranza del genere, che comunque ci sarà una cucina da campo attrezzata dove faremo i pasti per tutti e dove chiederemo un contributo a copertura dei costi delle materie prime, perché tutto il lavoro sarà principalmente svolto da noi stessi tramite un volontariato, tra virgolette, cioè ognuno è preso un pezzettino, quindi senza pesare troppo su ognuno di noi, porteremo a casa una struttura di accoglienza, vediamo intorno alle 200 persone, dove dovremo garantire bagni e garantire l'ospitalità notturna e anche il cibo. Il raduno intergalattico di Genuino Clandestino a Mirabella e Clano, in provincia di Avellino, dal 13 al 15 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Ciro di Rucasa 11:30. A presto! Ciao, grazie, spero di averti presto anche io là. Thank you.

Aldo Moro è stato rapito 2 giorni fa. E proprio oggi, mentre si celebravano a Roma i funerali degli uomini della scorta, è stato ritrovato il primo comunicato delle Brigate Rosse. La trasformazione nell'area europea dei superati stati-nazione di stampo liberale in stati imperialisti delle multinazionali è un processo in pieno svolgimento anche nel che palle! Scrivono così le Brigate Rosse. Che tanto noi ormai ci siamo abituati, altrimenti non si capirebbe un cazzo. Sotto sotto però lo sappiamo tutti che quello che sta accadendo è qualcosa di enorme, inimmaginabile. Cioè è l'azione, è il cambiamento, è la rivoluzione! Ma se la strada giusta non fosse la lotta armata? Cioè, la lotta armata ci allontana dalla gente, ci allontana da tutto. Il fatto è che il capitalismo un'alternativa non te la dà, perché tutto diventa propaganda, repressione, istituzione, come il funerale di quei poveracci, trasformato in un evento di Stato. E che cazzo doveva diventare? Li hanno ammazzati mentre servivano lo Stato. Però cazzo, stanno ammazzando troppe persone. Ma è così che si fa la rivoluzione? Ma come cavolo si fa a morire così? Entro nell'androne e trovo un uomo sulle scale. È grosso, alto, mi sembra un arabo. E mi guarda. Tiene paura, lo capisco subito, tiene paura di qualcosa. 8 o'clock. Mi segue sulle scale, lo ripete 2 o 3 volte, ma io non lo capisco, l'inglese non lo so. Poi tiene la voce così profonda. Arriva al pianerottolo e mi apre a Maria. Ma che ha detto? 8 ore, mi risponde mia figlia. Mi scusi signore, ma chi cerca? Forse ha sbagliato. 8 ore cosa? Cosa 8 ore? 8 o'clock. I'm sorry, I don't speak Italian. Chiudo la porta. Siamo soli in casa. Lorenzo è fuori con amici e Maria sta uscendo pure lei. Io mi metto a preparare la cena, ma non riesco a non pensare a quell'uomo, agli occhi suoi, la sua faccia spaventata. Maria, mi raccomando, torna presto, non farti aspettare per cena! Ma non faccio in tempo a dirglielo che quella è già fuori. E io mi butto sui fagiolini. Si è fatto buio. Qualche luce si accende alle finestre dei palazzoni intorno al parco, mentre piano piano ce ne andiamo tutti. Io attraverso piazzale Udine e non so che cazzo fare. Cioè, non ho voglia di tornare a casa. Passo sotto la ferrovia e ho di nuovo la paranoia di essere pedinato. E allora mi volto, ma non c'è nessuno. No, è che lunedì all'uscita da scuola c'era una simca bianca che mi ha seguito per un pezzo. E poi me la sono ritrovata anche sotto casa, il pomeriggio dopo. E anche l'altra sera, quando sono andato a Leoncavallo, era parcheggiata dall'altra parte della strada. Sì, adesso però non c'è nessuno. Cioè, magari è solo una mia paranoia. Meglio non pensarci. Sono 7:00 passate, a quest'ora Iaio sarà ancora in Piazza Duomo con la Selina, certo, come se non la conoscessi. E io l'aspetto, tanto ci sono abituato. Per fortuna che qui in trattoria ci sono Massimo, Danilo e Bruno. Partita Pigliardino, ragazzi! Pistone! Iaio arriva che sono 7:30 passate. Oh Iaio, hai rotti i coglioni, non puoi arrivare sempre tardi. Dai, ma cerca di essere più elastico. Minchia, quando fai così ti ammazzerei. Dai, che c'è mia madre che ci sta aspettando. In 10 minuti saremo a casa, ceneremo con mia madre e poi andremo al concerto, così Iaio rivedrà la Selina. La Silvia però non verrà. Lo so. Sono 3 settimane che non la vedo, da quando abbiamo litigato. Oh, non voglio che frequenti quei tossici di Viale Fulvio Terzo. Ma lasciami in pace, sei peggio di mio padre. Sì, ma io ho paura. Ho troppa paura che anche lei abbia cominciato a farsi. Vabbè, non ci voglio pensare. Usciamo dalla trattoria e da via Leoncavallo prendiamo via Labrate. Oh, Iaio è un fiume in piena. Innamorato. Me l'avrò detto quasi di tutte le ragazze che ha conosciuto. No, ma questa volta è diverso, certo. Questa volta c'è qualcosa che lo fa stare bene, che lo fa stare male allo stesso tempo. Io me ne sto zitto, perché se apro bocca è solo per pigliarlo per il culo. Su via del Casoretto, proprio dietro alla chiesa, salutiamo il giornalaio che sta rimettendo dentro i quotidiani prima di chiudere. c'è scritto Aldo Moro a caratteri cubitali su tutti i giornali, in ogni angolo dell'edicola. E allora Iaio fa: ma come si fa ad ammazzare la gente così? E il giornalaio risponde: Fiore, mi capisci fino a no. In 5 minuti saremo a casa mia. All'angolo con via Mancinelli c'è qualcuno che ci chiama. Oh! Ci fermiamo e vediamo tre ragazzi davanti all'entrata dell'oratorio, quella sul retro, proprio davanti ai gradini dove ogni tanto ci fermiamo a fumare. Io con tutte le mie paranoie resto fermo, mentre Iaio subito gli va incontro con il suo bel sorriso da indio che mette su quando c'è bisogno di essere gentili con qualcuno. Due di loro indossano degli impermeabili chiari, mentre il terzo un giaccone di pelle marrone. Avranno al massimo 2-3 anni in più di noi. Uno di quelli con l'impermeabile chiaro ci viene incontro. Sei Fausto Tinelli? Chiede il tipo a Iaio, che si volta di scatto verso di me. Sono io. Lui tende il braccio verso di me. La mano è nascosta dentro un sacchetto di plastica bianca. Poi un colpo, improvviso, soffocato. Sento una fitta alla pancia, qualcosa di caldo che mi entra nello stomaco. Però non sento dolore. Poi un colpo al braccio, poi al petto, poi ancora alla pancia. E allora capisco. E allora io lo so cosa dovrei fare. Io mi dovrei voltare e scappare via. E allora lo faccio, mi volto. Ma cado a terra. Mentre vorrei urlare e dire a Iaio: tu sì, tu fai ancora in tempo a scappare via. No, ma non ci riesco. Non riesco ad aprire la bocca. Vedo solo che Iaio è terrorizzato. Lo vedo dai suoi occhi che ha paura. So che per un istante vorrebbe venire verso di me, ma io scuoto il capo impercettibilmente da terra. E allora Iaio si volta e comincia a correre. Bravo Iaio! Vattene Iaio! Scappa! Scappa! Vattene via! Ma la pistola spara ancora e colpisce Iaio alla schiena. Io vedo tutto. Iaio cade a terra sbattendo la faccia sull'asfalto e questo qui non smette di sparargli. 1, 2, 3... E poi basta, cazzo! Basta! Sono le 8 meno 5. La strada ora è deserta. Loro se ne sono andati. Sull'asfalto c'è il mio sangue che si mischia insieme a quello di Iaio. C'è una donna dall'altra parte della strada. Ha visto tutto. Guarda nella mia direzione. Mia madre! Qualcuno deve avvertire mia madre! Ditele che sono qui! Che l'aspetto! Mamma? Io resto qui, eh. Io non mi muovo di qui. Sirene, ma faccio vedo un'ambulanza e tre macchine della polizia che c'erano dietro la chiesa. Ho un brivido. Maria, che ore sono? Sono le 8, mi risponde. All'improvviso ripensa a quell'uomo, agli occhi suoi, alla sua paura. Corro al telefono e chiama Danila. Pronto? Sì, non sono ancora arrivati. Sì, mi fai chiamare come arrivano, sì. Ma le parole di Danila non servono a calmarmi. Dalla finestra si sentono voci e urli. L'ambulanza e le macchine della polizia devono essersi fermate qua vicino perché le sirene si sono spente all'improvviso. Ma faccio di nuovo e vedo un sacco di gente che corre dietro la chiesa. Non mi tocco neanche il grembiule e scendo giù. C'è un sacco di gente per strada. Qualcuno esce dalle case. Qualcun altro sta già dalle finestre. Altri ancora corrono per andare a vedere e corro anch'io seguendo la folla. Giro dentro la chiesa e vedo le luci delle sirene rosse e blu che spuntano come lampi da via Mancinelli. Io corro ancora più forte. Cosa? Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due compagni sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra. Il corpo di Fausto è stato trasportato in ospedale, ma è morto durante il trasporto. Vedremo aggiornati man mano che le notizie ci arrivano. Spingo, mi infilo tra i corpi. Fatico a farmi avanti. È sabato sera e questa via buia sembra una discoteca illuminata dai lampi rossi e blu delle volanti. La musica sono i cori di questi ragazzi. Gli slogan gridati a squarciagola, la rabbia che si trasforma in lacrime e urla. Spingo ancora, un passo alla volta, un corpo alla volta. Procedo lentamente, fino a vedere il commissario Salvomeli, quelli della Digos, gli uomini della scientifica. Lascio la folla alle mie spalle. L'asfalto di via Mancinelli è coperto di sangue, scuro. Ci sono i colleghi degli altri giornali. C'è un'ambulanza che non riesce a passare, bloccata da questo mare di persone. I poliziotti creano un passaggio, spingono i ragazzi sui marciapiedi. Le grida si fanno più forti mentre l'ambulanza avanza passo d'uomo verso via del Casoletto. Rimaniamo solo noi giornalisti e i poliziotti. È come se tutto si fosse fermato un attimo dopo l'omicidio. La violenza si respira ancora. Commissario? Brutto. È un proiettile? Sì, è un 7,65 forse. Che mi dici? Che poteva capitare a mia figlia. Vedo tanti cadaveri, tanto sangue versato, quasi ogni giorno che ci ho fatto il carro. Ma due ragazzi morti io non mi ci posso abituare. No, le vittime sono Iannuzzi Lorenzo, 18 anni, nato a Firenze, e Tinelli Fausto, 18 anni anche lui, nato a Trento. Allora, sul luogo del delitto... Dottor Grandini, continua a parlare davanti a Mauro Brutto e ad altri colleghi giornalisti che a mezzanotte passata stanno ancora qui a fare domande, ma io non ascolto più. Allora, da quanto accertato si tratterebbe di un regolamento di conti per una faida inerente al traffico degli stupefacenti. Le due vittime infatti conoscevano i loro killers. Questo lo conferma una testa che ha assistito a uno scambio verbale tra i cinque, pensate, subito prima della sparatoria. Ma se i due ragazzi erano incensurati, come possono essere stati vittime di delinquenza comune? Ma chi è il signor Brutto? È sempre a fare delle domande, ma ci lasci fare il nostro lavoro. E il mio lavoro è fare domande. E nonostante loro, ma non ce l'ha una famiglia? Chi poteva volerli morti al punto da organizzare una vera carneficina? Senta, non c'era uno straccio di casa dove andare, abbia pietà, su! Se avessero fatto uno sgarro a qualche piccolo spacciatore, i killer non si sarebbero limitati a spaventarli. Questo sembra un delitto organizzato da professionisti, non roba da piccola criminalità. Senta, va bene, allora scriva pure tutte queste belle cosette sul suo giornaletto, che tanto lo sappiamo tutti perché scrive. Ma mi permetto di darle un consiglio, dal momento che le piace tanto fare le ore piccole, ma perché non si occupa di spettacolo, Vado a intervistare gli attori, le attrici, che le piace tanto far tardi come lei, Buonanotte! Sabrina ha la stessa età di Iannuzzi e di Tinelli ed è stata a Leoncavallo. Lo so, anche se non dovrei saperlo, quella c'ha paura che io lo sappia. Mia moglie me l'ha detto come se fosse un segreto. Ma sì, sono giovane. Anche se sono di sinistra, a parte qualche concerto e un po' di birra, non fanno niente di grave. Devi capirla. Ci vanno tutti gli amici suoi. E io l'ho capita. Cioè... No. Non l'ho capita. Ho fatto finta di niente. Lasciando che rimanesse una cosa tra madre e figlia, ma da stanotte, con quei ragazzi morti sull'asfalto, tutto quel sangue, la gente che urlava, non ci posso pensare, poteva capitare a mia figlia. Meni, per l'amor di Dio, non creiamo degli inutili allarmismi, che c'è già abbastanza tensione in giro e questo lei lo sa meglio di me, o sbaglio? Guardalo come sorride, minchione. In posa, accanto al capo della polizia, con tutte le foto in mostra sulla scrivania. Non ci capisci una minchia, Grandini. Sei un parla parla, ma le foto ti fanno sentire importante, ti fanno sentire potente. Senta, commissario, è lei che conduce le indagini, no? E allora, per una volta si senta libero di seguire la pista che le piace di più, no? Ah, matrice politica, eversione di destra, microcriminalità, spaccio di stupefacenti. Dottore, la dinamica del delitto lascia supporre che probabilmente la matrice sia di natura politica. Vabbè, allora, senta, si muova in ogni direzione, eh? Ma stia attento e ricordi che questo per noi è e rimane un duplice delitto nato nell'ambito dello smercio degli stupefacenti. Non deve trapelare mezza notizia alla stampa della sua pista politica, è chiaro? Ecco, ora mi minaccia pure il minchione. Voglio vedere se erano figli suoi cosa faceva. Stasera io e Barbara abbiamo detto ai compagni di redazione che ci sposiamo. È stato un bel momento. Con tutte le cose brutte che stanno accadendo, con la morte di gente innocente e il rapimento di Moro, almeno abbiamo finito la riunione in allegria. È strano. Io e Barbara stiamo bene, siamo felici. Eppure se ci penso, se mi guardo intorno, sembra quasi che tutto stia crollando. Com'è possibile che in Italia si muoia così? Beh, poteva capitare anche a noi. Poteva capitare a chiunque. È questa, la paura sottile, strisciante, che si sta insinuando in chiunque faccia politica. È questa la strategia della tensione. È così che funziona. Il messaggio che passa è sempre lo stesso. Fai politica, muori. Barbara voleva venire al casoretto. Adesso via Mancinelli è deserta e silenziosa. Eppure in strada c'è ancora qualcuno. Ragazzi, arrivate per portare un mazzo di fiori. Dei bigliettini. Li lasciano accanto al marciapiede dove sono morti Fausto e Iaio. È lunga via Mancinelli e non attraverso. Una strada buia, deserta, senza vie di fuga, da cui non si può scappare, è come una trappola. Qualcuno li stava aspettando. Fausto e Iaio sono caduti in una trappola. Ci sono cose che vorresti dire da sempre. Quando arriva il momento non trovi le parole. Sai, Iaio, io ti ho sempre ammirato, anche se forse non te l'ho mai fatto capire. Dovevamo festeggiare il mio 18° anno di vita, il mio compleanno, per mercoledì, 2 pasticcini e via, una roba da niente. Ho passato i miei 18 anni ai tuoi funerali, passando per 3 volte da via Mancinelli. Avevo sempre detto che non avrei mai dimenticato i miei 18 anni. Ma non pensavo che accadesse così. Non riesco a fare altro che piangere. Piangere e basta. Pronto, sono la mamma di Fausto Tinelli. Buonasera, signora. Buonasera, senta, io volevo smentire certe cose che ho sentito che dicevano che mio figlio è nel mondo della droga e altre cose. Sono tutte calunnie che le stanno mettendo addosso, eh? Ha le sue idee, però non ha mai fatto male a nessuno. Non ha mai fatto niente e neanche male a nessuno, perché non mangiava la carne, che amava persino le bestie. Guardi, stasera le avevo preparato il risotto per tutti e due da venire qui e le avevo fatto lo strudel che veniva sempre a cena tutti i sabati qua. Non voglio che vadano di mezzo degli altri ragazzi ancora come mio figlio. Solo di indagare invece chi è responsabile. Capisce cosa voglio dire? Voglio solo i killer. Quelli li voglio. Quelli dovete aiutarmi a trovarli. Capisce? Perché li voglio fare fuori da sola. Sì, Fausto e Iaio collaboravano alla nostra inchiesta. Sacchi Paolo è seduto davanti a me nel centro sociale Leoncavallo. Sono 9:00. Io è la prima volta che ci metto piede qua dentro e chissà perché me lo immaginavo differente. un po' come una discoteca, ma invece pare più un magazzino dove tutto è un po' arrangiato. Il bancone del bar, le luci, le sedie. Giù in fondo c'è qualcuno che sistema degli strumenti. Insomma, Sacchi, da quanto tempo Tinelli e Iannucci collaboravano alla vostra inchiesta? Dall'inizio, 2 o 3 mesi. È rapido nelle risposte. Un ragazzetto sicuro che si ricorda le cose non ci deve perdere tempo a pensare. C'ha memoria questo, si vede subito. Abbiamo cominciato perché c'è troppa merda, il casoletto. Troppi ragazzi che si fanno e nessuno che se ne occupa. Facciamo quello che dovreste fare voi. Penso che forse ha ragione, dovrebbe fare il poliziotto questo qui. Che anche se è malo combinato ci cammina la testa. Forse sarebbe anche meglio di tanti poliziotti che conosco. Ma uno come lui il poliziotto non lo farebbe mai. Ci schifa uno come lui. Poi però mi viene in mente un mezzo pensiero, una domanda a cui ora è meglio non rispondere. E se la droga contro cui Sacchi Paolo combatte girasse pure qui dentro? All'improvviso? Mi vedo tutti questi ragazzini che ballano questo rock che gli piace tanto. E loro ballano, ballano, e a me sembrano tutti fatti. E in mezzo a sta confusione anche a Sabrina ci vedo. E allora preferisco non immaginarmi più niente e torno a guardare Sacchi Paolo, anni 24, nato a Milano, professione disoccupato. Sacchi, di che cosa si occupavano esattamente Tinelli e Iannucci? Facevano il giro delle farmacie del quartiere per prendere il numero delle siringhe vendute ogni settimana. Poi noi questo dato lo confrontiamo con quello dei medicinali in endovena. Le siringhe in più sono siringhe tossiche. Si facevano un'idea del numero dei tossicodipendenti. Certo, ma solo approssimativamente. Bisogna sempre pensare che la siringa se la passano, la usano più volte. Ma i due ragazzi entravano mai in contatto con spacciatori tossicodipendenti? No, assolutamente no. Fausto e Iaio si occupavano solo delle siringhe. Sa, commissario, se uno si fa un giro nei posti giusti, in qualche bar, al parco, gli spacciatori li riconosce subito. E sa cosa scopre? Che sono tutti fascisti. Anche se c'entrasse la droga, questo rimane un delitto politico. La stretta di un ragazzo che non ha paura. Di solito le mani che stringo sono tutte nervose, sudatici, mosce. Sono solo le 9:30 e Milano mi sembra una città sotto coprifuoco. Passo davanti all'unica luce accesa della via, una farmacia notturna, e ripenso a quello che mi ha appena detto Sacchi Paolo. Ma se è vero che i due ragazzi dovevano chiedere ai farmacisti il numero delle siringhe vendute, come può essere quello della droga un vero momento? Boh. Intanto, eccomi sotto casa a fare i soliti 2 giri del palazzo. Che non si sa mai. C'è da stare attenti, non c'è da scherzare. È un lavoro di merda. Una finta promozione, un posto di comando e coordinamento, ma un posto che nessuno voleva che è toccato a me. Un posto che di questi tempi al nord ti può mandare a creatore. 4 mesi ho aspettato prima di dirlo a Mara che mi avevano messo la Digos. Non sapevo come fare, come la prendeva. Lei mi ha guardato, si è girata e ha detto solo: se sta bene a te, sta bene a me. Io lo sapevo che era spaventata. Io no, non sono spaventata. Ma sto attento lo stesso. Gli elementi in mano agli inquirenti. A un giorno di distanza dal duplice omicidio. No. A 12 ore di distanza dai fatti di via Mancinelli, la polizia brancola nel buio. Mauro, per favore. Parlando con gli inquirenti, si ha la sensazione che le indagini si muovano con passo insicuro. È questo il caso in cui la frase di repertorio "si indaga in tutte le direzioni" sembra tradire una profonda incertezza e anche una certa volontà di minimizzare l'accaduto. Oltretutto, la polizia non è stata ancora in grado di classificare il calibro del proiettile trovato in via Mancinelli. Fino a ieri sera sembrava fosse un 38 special. Il problema è che per la scientifica si tratta invece di un 7,65, un calibro da pistola automatica. Ma sul luogo dell'omicidio non sono stati trovati i bossoli. Tre uomini sono in piedi sul marciapiede, davanti a me saranno a 5-6 metri da me. Contemporaneamente c'è un altro giovane, leggermente piegato, e si comprime lo stomaco con entrambe le mani. Sento dei colpi attutiti, tanto che lì per lì penso che siedano dei petardi e che il gruppo di persone stia scherzando. Noto che il giovane, quello con l'impermeabile, ha un sacchetto di cellophane bianco, ce l'ha in mano, e lo tiene diretto verso il ragazzo che si contorce. Ha entrambe le mani dentro il sacchetto. Sta sparando in direzione Iannucci. Non ho notato altri sacchetti nelle mani degli altri due giovani, né alcuno di loro assumere un atteggiamento quale quello che può essere quello di uno sparatore. Una busta bianca, puntata verso gli aghi. Una busta bianca come fosse una pistola e le mani del killer dentro la busta. L'arma è lì dentro, no? Ma perché sparare da dentro una busta? Una busta non può servire da silenziatore. Se la testimone ha sentito colpi simili a petardi, la pistola doveva avere un silenziatore. La busta serve a raccogliere i bossoli. Hanno sparato con la pistola in una busta di plastica in modo che i bossoli non cadessero in terra e loro potessero portarseli via senza lasciare prove. Sabato 18 marzo, una nostra brigata armata ha giustiziato i servi del sistema Pinelli, Fausto e Iannucci Lorenzo. Con questo gesto intendiamo vendicare la morte di tutti i camerati uccisi dalla reazione e dalla sovversione. Nulla potrà fermarci. Siamo stanchi di piangere i nostri camerati. Viva la rivoluzione fascista! Morte al sistema e ai suoi servi. Onore ai camerati uccisi dal fronte rosso e dalla reazione. Esercito nazionale rivoluzionario. Brigata armata Franco Anselmi. Ma cosa vuol dire? Cos'è l'esercito nazionale rivoluzionario? Se dell'esercito nazionale rivoluzionario sono professionisti. Chi li ha formati? Chi li ha armati? Dove ho letto di Franco Anselmi? Ah, ecco qui. Cronaca di Roma. È finito tragicamente l'assalto di un comando fascista ad un'armeria della capitale. Uno dei terroristi è stato freddato mentre fuggiva. Uno dei quattro terroristi è stato ucciso dall'armiere con una revolverata alla nuca. Si chiamava Franco Anselmi, aveva 22 anni. Ma che cosa c'entra l'estrema destra romana con il casoletto? Cosa c'entra Franco Anselmi con Fausto Iai? Non stia a disturbare i colleghi di Roma con tutto quello che sta succedendo là. Grandini, oltre a trattarmi da minchione, si mette anche a sindacare su come conduco le inchieste. Per lui di chiamare i colleghi di Roma con quello che è successo a Milano non se ne parla proprio, come se Roma e Milano fossero in due paesi diversi. Ma scusi, dottore, lei stesso mi ha detto di non tralasciare alcuna pista. Senta, commissario, a Roma con la situazione Aldo Moro hanno cose un po' più importanti a cui pensare, eh? Se proprio vuole seguire questa pista del delitto politico, si concentri sul mondo della destra milanese, che Roma non c'entra niente, ce lo dico io. Stiamo qua da mezz'ora, in questa città del cazzo, in un quartiere dei compagni di merda. Fa un freddo boia, mi cola pure il naso e mi son manco portato i fazzoletti. Mentre aspettiamo che sto ragazzino esce da sto ristorante, io, Maurizio e Fabione si mettiamo a fumare. Oh, Maurizio è una settimana che lo segue. E fumiamo, una sigaretta dietro l'altra. Oh, io Fabione non l'ho mai visto così. Lui è uno che parla. Dice una marea di cazzate. Mi fa ride. Oh, un camerata serio, uno vero, uno che ti puoi fidare. Però è pure un cazzone. E invece stasera pare un filosofo. Zitto, appoggiato al muro, col suo giacchetto di pelle, a fumare. Pare uscito da uno di quei film francesi in bianco e nero. Ma che cazzo mi metto a pensare? Certo, gli piacerebbe a Fabione essere francese, e invece della Balduina, come me. Ci sono cresciuto insieme con Fabione, fin da quando eravamo ragazzini. Quando ancora lui non era Fabione, però già ci seminava con quelli dei licei. Con tutti quei figli dei papà che sono diventati comunisti per moda. Che se poi vanno a scavare veramente, si ritrovano col nonno fascio. Ma non fascio per convenienza, fascio per davvero. L'altro giorno al fungo... Quando Valerio mi ha detto che partivo pure io, non ci potevo credere. Valerio e Cristiano si fidano di me. Mi hanno dovuto voglia di abbracciarlo, Valerio, poi mi sono stato fermo. Lui ha cominciato a dirmi una marea di cose, ma io non lo stavo ad ascoltare, era troppo felice per tagliare lì. Ma mi stai a ascoltare? Guarda, non fa cazzate che questa è la vendetta. Io non gli ho detto niente. Però mi è sembrato strano. Se deve essere una vendetta, perché non ammazziamo qualcuno a Roma? Sarebbe più facile, no? Però poi mi sono stato zitto. Quella sera sono andato a casa di Laura. I suoi genitori non c'erano, abbiamo scopato sul divano tutta la notte. Ma ha detto che c'avevo qualcosa di strano negli occhi. Io sono stato zitto. Me la sono guardata, mi sono fatto l'ultimo tiro e poi me la sono riscopata. E poi ancora, e ancora, e ancora, fino all'alba. A volte penso che forse mi sono innamorato per davvero. O forse lei che gli piace troppo il cazzo. Poi ieri sera in treno ho dormito tutto il tempo appoggiato alla spalla dei Fabioni. Non ci pensavo a quello che venivamo a far qua. Era come partire per una gita con la scuola. Mal di testa. Non riesco a pensare a niente. Che ore sono? Sembra notte fonda. No, ma lo so che non è notte, ci sta il sole fuori. Come può esserci il sole? Tutta questa luce che entra dai finestroni è troppo forte per me. Così, così chiudo gli occhi. E all'improvviso lo vedo. Ciao, amore mio. Vieni qua, fatti abbracciare, vieni. No. Riapro gli occhi e vedo padre Pergo che sta di fronte a me là in piedi sull'altare e parla. Ma io non lo sento. Io sto tutta dall'altra parte. Visto a Lorenzo. Era sabato scorso, questo me lo ricordo, era dopo pranzo, ma lui è uscito di casa. Non mi ricordo come ci siamo salutati. Se gli ho dato un bacio. O se lui mi ha detto ciao mentre lavavo i piatti, non mi sono manco voltato. Mi ricordo se gli ho fatto il caffè. O se si è addormentato dopo mangiato. Non mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto in faccia, Lorenzo. E com'era vestito, Che ci aveva addosso? Ma che ci siamo detti? Niente. No, forse niente, forse è uscita di casa così e non ci siamo detti niente. Qualcuno urla, non li dimenticheremo mai! Io mi volto! Ci sta così tanta gente. Ci sta tutto il quartiere. Ci stanno i ragazzi del Leoncavallo. I compagni di scuola di Fausto, i vecchi compagni di mio figlio, altra gente, ci stanno pure gli operai degli innocenti. E perché ci sta così tanta gente? Guarda, guarda, le giudicano. Allora, non ci posso stare qua, mi alzo di scatto, faccio per andarmene, ma qualcuno prova a prendermi per mano, ma io non mi fermo. Cammino attraverso le navate, la gente che mi scansa come se fossi malata. Una signora mi mette a fiori bianchi in mano e io lo piglio senza neanche guardare ed esco fuori. Per un attimo il sole così forte, ma così forte che non riesco a vedere niente. Poi riapro gli occhi piano piano. E ci sta pure tutta la piazza piena. Sembra la manifestazione, ma di quelle della scuola dove ci vanno pure Lorenzo e Maria. Andatevene a casa, tornatevene a casa vostra, fatevi gli affari vostri. Voi a mio figlio neanche lo conoscevate, lo vedete cosa succede impicciarsi di politica, lo vedete? E io ce lo dicevo sempre, Lorenzo e Maria non andavano. toccano, lente. Lente. Fermano tutto. Fermano il sole. Le bandiere. Tutti i rumori. Tutto fermano. I miei pensieri. Come niente? È tutto sparito. Giù nell'archivio gli effetti personali di Tinelli Fausto non ci sono più. E dallo schedario risulta tutto restituito. Tutto restituito. Ecco. A me Tinelli Danilo ha detto che lei gli effetti personali di suo figlio non li ha ricevuti mai. Anzi, guarda, mi ha chiamato ieri, mi ha detto di essere andato a Trento a seppellire suo figlio. E al rientro nell'appartamento di via Montenevoso ha trovato tutto sotto sopra. Non mancava nulla a parte il registratore su cui il ragazzo teneva le interviste ai farmacisti. Ancora sta storia del traffico di droga. Vuoi vedere che alla fine c'ha ragione quel minchione di Grandini? Comunque, la Tinelli mi ha anche raccontato. C'era una famiglia lassù, poi da un giorno all'altro se ne sono andati ed è arrivata altra gente strana. Signora, gente strana, saranno stati gli studenti fuori sede. Piuttosto, guardi che noi non abbiamo trovato segni di scasso sulla porta. Chi altro oltre a lei è in possesso delle chiavi? No, nessun altro. Mamma. Le chiavi io le devo in tasca. Ma le sono stati restituiti gli effetti personali di suo figlio? No, nessuno mi ha dato niente, no. E adesso se ne esce fuori Turri con questa storia che giù in archivio non ci sono più gli effetti personali del ragazzo. Minchia. E chi può averci messo le mani? E per quale motivo? Commissario, che cosa devo fare? Cosa devi fare, Turri? Niente, va, vai a casa. Va. Niente. Stanotte non ho chiuso occhio. Barbara dormiva e non volevo svegliarla. Sono rimasto lì, immobile, al buio. Mi è sembrato tutto inutile. Ma cosa sto facendo? Cosa penso di scoprire? Sto per sposarmi e dovrei pensare ad altro. Ma poi mi è venuto in mente un disegno. Un ritratto fatto da Fausto a una sua amica. Ho immaginato le sue mani che si muovevano veloci sul foglio. Per la prima volta l'ho visto come un ragazzo reale. Uno come tanti, mentre fa un disegno. E si morde il labbro per concentrarsi meglio. No, non è tutto inutile. Entro al bar pirata e l'atmosfera si paralizza. Sanno chi sono e tutti mi fissano. In silenzio. Io faccio finta di niente, chiedo un caffè e vedo che c'è Luca. Ma lui evita di incrociare il mio sguardo. Poi, fuori, in macchina, parcheggiato dall'altro lato della strada, aspetto che Luca esca dal bar. Appena lo vedo, gli lascio una trentina di metri di vantaggio, metto in moto e lo seguo. Poco prima del parco Lambro lo affianco e lui sale. Come cazzo ti viene in mente di cercarmi in un covo di fascisti, eh? Prossima volta mi devi mandare un messaggio a casa. Scusa. Sai qualcosa dell'omicidio del Casoretto? Sì. Di Fausto e Iaio. Ascolta, io l'unica cosa che so è che qualcuno ha preso un treno, quello che va a Roma. Parte dalle 23:30 a stazione centrale. E mo che fa? Sti ragazzini sono usciti dal ristorante e hanno cambiato strada. Hanno preso via Lambrati. Non li possiamo seguire perché c'era troppo vantaggio e non si poteva mettere a cuore. Maurizio ci indica l'incrocio in fondo alla strada. Andiamosene laggiù. Questi due ragazzini per andare a casa devono passare da là. Cominciamo a camminare su sto marciapiede deserto, tutti e tre zitti. E già si vede in fondo alla strada il giornalaio che è ancora aperto, cazzo. Se fermiamo e aspettiamo. Sono le 8:10, sta strada è tutta buia. Da qui non ci può vedere nessuno. Ne colo ancora il naso. Stavolta mi asciugo con una manica dell'impermeabile. Maurizio fa un passo verso di me, io quasi penso che mi va a lungare un fazzoletto. Pensaci te, mi fa. E mi dà la pistola. Io lo so quello che devo fare. Lo so bene. Me l'hai segnato l'altro giorno e io fungo. Così metto la mano in tasca e prendo un sacchetto di plastica. Ci infilo dentro la mano con la pistola. Stringo il buco intorno al polso e ci faccio un nodo con due manici. Così non esce niente. Poi all'improvviso da dietro il giornalaio spuntano sti due ragazzini. Io per un attimo non so che fare. Poi vado subito incontro, ma appena faccio un passo, Maurizio mi ferma. Resta qua. Chiamali. Au. Uno di voi si porta. Mi guarda. Io non gli dico niente. Metto la mano con la pistola dietro la schiena e con l'altra gli faccio un cenno come per dire, vieni qua. Lui si volta verso l'amico suo. Si dicono qualcosa. E poi vengono tutte e due verso di noi. Io non penso a niente. Non penso ai morti nostri. A Franco, a Michi. Io penso solo a me stesso. A quello che ho in mano. È una missione. E dalla missione non si può scappare. È tutto scritto. Di mattina, 9 maggio. Nel giro di 20 secondi cominciano a squillare tutti i telefoni della redazione. Qualcuno accende la TV e insieme vediamo le immagini trasmesse dalla RAI. Il corpo di Aldo Moro, senza vita, raggomitolato nel portabagagli di una Renault 4. Rimaniamo senza parole. Le BR hanno ucciso il presidente della Democrazia Cristiana. Il caporedattore ci riunisce da ora. Tutta la cronaca sarà incentrata solo sul caso Moro. Tutto il resto passa in secondo piano. Ci vuole impegnati sul fronte. Lotta alle BR. È iniziata la caccia all'uomo. L'effetto pratico è che ho la scrivania piena di carte, di circolari che mi piovono dall'alto, gli incarichi che mi gira Grandini e che devo accettare senza discutere. Da oggi tutta la Digos è in prima fila nella lotta alle BR. Ormai è tardi. Moro è già morto. Basta, Meli. Le altre indagini passano in secondo piano per mancanza di tempo, mezzi e personale investigativo. Non voglio più sentirla parlare delle sue cose, delle sue piste e dei due ragazzi del casoletto. Da oggi pensiamo solo alle BR. E così mi sono arreso. Perso nei miei compiti di commissario. E che viviamo per fare? La nostra vita è un elenco di cose da fare. Liste di impegni. Di persone da sentire, di capi da ascoltare, di ordini da eseguire. E non rimane tempo. Non rimane tempo per pensare. Non rimane tempo per capire che cosa succede. Non rimane tempo per scavare nel passato, nella realtà di questo paese. Non rimane tempo per la vita privata, per gli amici, per mia figlia, per mia moglie. E da oggi neanche per Tinelli e gli Annucci rimane. Maria, ci vengo tutti i sabati. Mi piace arrivarci presto, così ho il tempo di fare tutto, di comprare i fiori, di sistemarli, di spolverare la foto. I fiori glieli compro sempre diversi, sempre colorati. A lui ci piacciono le cose colorate. La settimana scorsa gli ho comprato dei bei tulipani rossi. Che belli che erano, non erano ancora tutti sbocciati. Mi mettono allegri i tulipani. Mamma, ieri sono andata alla riunione, mi dice mia figlia mentre guida. E io lo capisco subito che sta parlando del gruppo di mamme antifasciste che si ritrovano a Leoncavallo per chiedere giustizia. Lei lo sa che non ne voglio parlare, però continua. E mi dice che ci dovrei andare anche io, che stanno organizzando un altro sit-in al tribunale, che la Danila ci va sempre. Ma tanto non serve a niente, le rispondo. Anzi, guarda, se non iniziavi pure tu queste manifestazioni di sta politica, a quest'ora tuo fratello era ancora vivo. Ecco, l'ho detto. Maria continua a guidare in silenzio, senza voltarsi, e comincia a piangere piano piano. Ma io sto bene. Mi sento quasi sollevata. Ma mamma, che dici? Che dico? Dico che tuo fratello veniva a Leoncavallo soltanto perché ci andavi tu. E che se non ci fosse mai andato, lui forse... Non riesco a finire la frase, che sto più a piangere di botto. Io ce l'ho detto tante volte a Lorenzo, pure a lei, di lasciar stare, di non impicciarsi, di... Certe cose, gente come noi, le paga per sempre. Noi siamo gente semplice, io lo dico sempre, uno si deve fare i fatti suoi e tirare avanti. Che c'entriamo noi con questa storia? Che c'entriamo noi con Milano, con gli scioperi, gli studenti, gli operai? Non c'entriamo niente. Io lo sapevo che se non era per il lavoro, se rimanevamo giù al paese non sarebbe successo niente. Se rimanevamo giù, se non venivamo qua, non sarebbe successo niente. Niente sarebbe successo. Se rimanevamo giù al paese, se non era questo lavoro che... Devo calmare. Maria ha smesso di piangere e continua a guidare. Sotto sta pioggia gelida. Siamo a giugno, ma siamo al nord. Ah, il cimitero che si avvicina. Siamo arrivati. Mia figlia parcheggia e io scendo dallo sportello e vado verso il suo. E vorrei abbracciarla, vorrei dirle che le voglio bene, che c'ho paura, che pure lei mi fa da brutta fine se continuo ad andare là. Ma non ci riesco. No, non le dico niente. Lei mi prende sotto braccio e ci allontaniamo insieme. Riparate da sto bello, senza dirci mezza parola. È fine settembre, ormai non credo più che si possa fare luce sul delitto di Fausto Iaio. Sono passati 6 mesi. Ieri sera però è accaduto qualcos'altro, a Roma, sempre a Roma. Un comando di 2 killer ha assassinato un giovane, Ivo Zini, di 24 anni, e ne ha ferito un altro che stavano leggendo l'unità di fronte alla sezione comunista dell'Alberone, in via Appia Nuova. Il delitto è stato rivendicato da Inar, una delle sigle più sanguinose del terrorismo fascista. Gli assassini, giovanissimi, hanno agito con estrema freddezza, da killer professionisti. Inar. L'omicidio di Fausto Iaio è firmato dall'Esercito Nazionale Rivoluzionario, ENR. 2 sigle molto simili, e tutte e 2 dell'estrema destra romana. E poi ancora, killer professionisti, un'azione da comando, la vittima militante di sinistra. Ivo Zini, come Fausto Iaio. Ma vai, corri, corri, vieni qui, dai! Che cazzo vuoi ancora? Ho letto dell'omicidio di Roma, quello di Ivo Zini, rivendicato da Inar. Voglio sapere se ENR e NAR sono gruppi vicini. No, ascolta, io non so niente, né di ENR né di NAR. E l'unica cosa che ti posso dire è che la mano che ha sparato l'Alberone è la stessa che ha sparato al Casoletto. Ma sei sicuro? No, sono solo delle voci. Io ti posso anche fare un nome, però è un nome che non vale un cazzo. Allora, Maurizio Carreri è un fascista romano che però è nato a Milano, conosce benissimo la città perché lui qui c'è ancora qualche parente. Comunque Mauro, io se fossi in te farei un po' di domande in giro per scoprire se veramente questi qui lo seguivano Fausto. Comunque tutto è scoppiato da Acca Larenzia, eh? Da quella notte i fascisti romani hanno deciso di agire. Acca Larenzia. I terroristi erano in 6, giovanissimi. Hanno sparato 12 colpi nel mucchio a 20 metri dalla sezione Messina. 2 missini, 20enni, sono stati assassinati. Uno freddato con un colpo alla nuca. È accaduto in via Acca Larenzia, tra i palazzoni del quartiere Tuscolano. Maurizio Carreri, 9 marzo, 9 giorni prima dell'omicidio di Fausto Iaio. La polizia scopre un appartamento che Franco Anselmi, lo squadrista romano ucciso nell'armeria, aveva preso in affitto a Perugia. Il contratto di affitto risulta intestato a due persone, a Franco Anselmi e a un altro squadrista romano di 20 anni, Maurizio Carreri. Carreri viveva a Perugia con Franco Anselmi. L'omicidio di Fausto Iaio è firmato dalla brigata combattente Franco Anselmi. 10 giorni prima dell'omicidio di Fausto Iaio, durante la perquisizione dell'appartamento di Anselmi e Carreri a Perugia, la polizia scopre 5 bossoli di calibro 7 e 65. La pistola che ha ucciso Fausto Iaio è una calibro 7 e 65. Sei Fausto Tirelli? Sono io. E io non glielo scampo. Rapido, tiro fuori la mano e gli sparo. Quattro colpi. Come se l'avessi sempre fatto. Come se sta mano mia esiste solo da adesso. Mentre prima non era una mano, prima non serviva un cazzo. Solo a farmi le seghe serviva. E invece mo sì che è una mano vera, che sa sparare. Io lo guardo sto ragazzino. Lo fisso negli occhi mentre cade per terra e si vede che non lo sa perché io ho sparato, che c'ha paura, che è innocente. L'altro non fa manco in tempo a voltarsi a scappare e io gli sparo subito addosso. 3 colpi. Come nei film francesi in bianco e nero dove c'è sta pure Fabione. Ma stasera Fabione invece di star nei film sta qua, dietro di me. E quando me volte mi sorride. Andiamo, fa Maurizio. E io calmo. Tiro fuori la mano dal sacchetto, ci lascio dentro la pistola con tutti i polsi e li tiro tutto in tasca. Mi volto solo un attimo. Sti due ragazzini stanno lì per terra, sul marciapiede, il sangue sporca tutto. Non li posso vedere. Cominciamo a camminare, io raggiungo Maurizio e Fabione. Il passo si fa più lungo, più rapido. Non ci guardiamo mai negli occhi, ma proviamo le stesse cose, lo so, la stessa sensazione. Il sangue che ti pulsa forte nelle vene. Leggo sotto dei colpi della pistola che ti rimbomba negli orecchi, come quando esci da un concerto, che senti tutto annebbiato. Mi colo ancora il naso e stavolta mi asciugo con una mano. E così all'improvviso, con un colpo al cervello, mi arriva l'odore della polvere da sparo. La mia mano forte della pistola, sto odore di uomo metallico e di potere, mi si rizza il cazzo. Lo sento duro nei pantaloni come il marmo e mi viene voglia il decoro di scappare là. Attraversiamo la strada e ci ritroviamo su viale Leoncavallo. Dietro l'angolo ci sta il cugino di Fabione che lo aspetta in moto. Fabione sale in sella e i due spariscono così, senza manco un saluto. Io e Maurizio attraversiamo un cancello e ci ritroviamo dentro un capannone. Davanti a noi ci sta il centro sociale, il Leoncavallo. Ma a quest'ora è chiuso, Maurizio lo sa bene. Non c'è pericolo, sta qua. Cominciamo a sentire le prime sirene della polizia che si avvicinano. E io mi accovaccio per terra, al buio, vicino a Maurizio. E solo adesso mi accorgo che non c'ho più il cazzo dritto. Le sirene passano davanti a noi su viale Leoncavallo, girano in viale Mancinelli e si allontanano. Poi altre sirene si avvicinano. Io non lo so perché, ma non c'ho paura che ci prendono. Dammi la pistola, mi fa Maurizio. Io calmo, metto la mano in tasca, prendo il sacchetto di plastica e gli do tutto. Attraversiamo la strada, scappiamo un cancello e ci ritroviamo sul viale Padova. All'altra parte della strada ci sta Paolo che ci aspetta, casinca bianca. Mentre attraversiamo, Paolo mette in moto. Maurizio sale avanti, io di dietro e via giù, verso la stazione. Paolo non corre per non dare l'occhio. Al semaforo passa la volante della polizia. A me mi viene naturale passarmi giù mi sedili, ma Paolo continua a guidare come se niente fosse. In 2 minuti siamo alla stazione. Io mi tolgo l'impermeabile bianco e prendo la sacca che avevo lasciato nella macchina quando Paolo ci aveva accompagnato al casoletto. E scendo a Piazza Luigi de Savoia da solo. Il treno è alle 11:30. E prima di salì non se dovevamo far vedere insieme, io, Maurizio e Fabio. Entro in un bar, mi siedo a un tavolo e mi prendo una sambuca. Improvvisamente sono così stanco che vorrei riposarmi un attimo. Sdraiarmi 5 minuti. Crollare dal sonno come quando c'hai 5 anni che ti addormenti in macchina e non ti svegli manco se ti vengono a pigliare in braccio per portarti a casa. Chiudo gli occhi. In treno invece non riesco a chiudere occhio. Sto tutto il tempo sveglio, con la testa vuota e i pensieri lontani, lontani, che non fanno manco in tempo a formarsi, che già sono andati via. 9 ore di treno, al buio, con Fabione che mi russa sulla spalla e Maurizio in piedi, in corridoio, a fumare. Non ci diciamo manco mezza parola. Sto solo, come le luci delle case lungo la ferrovia, che scorrono via nel buio. Era vedere venire così, con la sua andatura saltellante, cioè tutte le mattine l'anno scorso lo incontravo, nunca mancabilmente mi chiedeva una sigaretta. No, non era un ridere, era semplicemente un compagno. Un compagno che lavorava un po' nelle classi, un compagno che viveva la sua immaginazione, come gli altri. Non era per i lavori alternativi alla classe, ovvio, non era per quei contenuti scientifici che stiamo studiando adesso. Lui con noi ha lottato per un programma diverso e lo stava facendo insieme a noi. Pronto? È tutto pomeriggio che squilla il telefono. Hanno ammazzato Luca. Hanno dato fuoco alla sua macchina con lui dentro. Io rispondo, ma dall'altra parte non c'è nessuno. Luca era preoccupato l'ultima volta che ci siamo visti. Si guardava in giro mentre mi parlava di Maurizio Carreri. Forse qualcuno sa, magari ci hanno visto. Hanno ucciso per colpa mia. Mauro, ma mi ascolti? Eh? Pronto? Pronto? Solo un click. Non fatto, come cazzo ne fatto? Da stamattina su tutte le frequenze della polizia rimbalza la stessa notizia. Cioè, carabinieri hanno arrestato Azzolini e la Mantovani in via Montenevoso. Quasi mi diverte vedere il dottor Grandini che prende questa notizia come un affronto personale. I carabinieri, capì? I personaggi delle barzellette che arrivano prima di noi. Perché questi qui a Firenze trovano un borsello con dentro una pistola, un libretto di circolazione di ciclomotori di Milano, un appuntamento da un dentista di Milano, un mazzo di chiavi. Ma come cazzo ha fatto a cercare di aprire 2 milioni di porte? E star calmo, Grandini, star calmo. Cioè, praticamente questi qui spiavano i brigatisti dal palazzo di fronte. Il civico 8 di via Montenevoso. Adesso è il civico 8. Montenevoso. Di fronte ci vivono i Tinelli. Quando arrivo trovo la via piena di macchine dei carabinieri e di agenti che entrano ed escono proprio dal civico 8. Mi giro e vedo una donna affacciata ai vetri della finestra del primo piano, esattamente di fronte al covo del BR. È Tinelli Danilo. Buongiorno signora, sono il commissario Melli. Sono arrivati qui stamattina. Sì, lei tempo fa mi ha parlato di un appartamento qui nel suo palazzo. Sì, quello all'ultimo piano. Si ricorda in che periodo sono andati via i vecchi inquilini e sono arrivati quelli nuovi? Metà gennaio, già a fine mese c'era tutto un viavai di gente strana. Signora, lei è sicura? Commissario, io è dal 18 marzo che non faccio altro che pensare a quello che è successo a mio figlio. Ho rivissuto tutto, ho ricostruito tutti i dettagli degli ultimi giorni che Fausto c'era ancora. Certo che ne sono sicura. Le brigate rosse venivano spiate dall'appartamento all'ultimo piano del palazzo dei Tinelli da fine luglio. A me la madre di Fausto ha detto che quell'appartamento era stato occupato da gennaio. E da chi? Dei carabinieri? Dei servizi? E se qualcuno era già al corrente dell'esistenza del covo da mesi sarebbe dovuto intervenire durante i giorni della rapimento morto. O forse la Tinelli, a sbagliarsi e a confondersi, presa più dalla sofferenza che dall'obiettività. Quando la gente non supera un dolore, vede complotti dappertutto. Un momento. A me la Tinelli ha parlato di quegli strani movimenti all'interno del palazzo molto prima di luglio. Suo figlio era appena stato seppellito, siamo a fine marzo. Ma se avesse ragione la donna, che cosa c'entrano i due ragazzi con tutto questo? È possibile che Tinelli Fausto abbia visto o sentito qualcosa che non doveva vedere e Iannucci Lorenzo sia stato ucciso perché era con il suo amico nel momento sbagliato, ma allora che cosa c'entra l'estrema destra romana con tutto questo? Non ci ho dormito la notte. Sono rimasto sveglio al tavolo della cucina fino alle 5 del mattino a prendere appunti e poi non pensavo neanche più. Mi sono preparato un bagno, il rumore dell'acqua nella vasca mi ha rilassato, ma ha svegliato Mara. Stavo, ma che fai? Mi ha messo una mano sulle spalle, ha cominciato a massaggiarmi. Ma e io l'ho presa! Ma non dalla vasca, ma non lo sta dentro! Vieni dentro! Vieni! Su, vieni! E ha protestato, ma si vedeva che le piaceva. È stato come tornare giovane. Quando Sabrina non c'era, stavamo un po' di più da soli. Perché abbiamo perso tutto questo? Perché l'abitudine ci ha fatto diventare altre persone. Erika, amore mio, vero? Vieni, vieni, corpo che conoscevo bene, che è così cambiato, vieni qui. Vieni. Voglio conoscerti ancora. Di nuovo. Come se il tempo non esistesse più. Non fosse mai esistito. Non riesco più a dormire. La notte mi giro nel letto cercando di non svegliare Barbara. Penso a Luca, a quello che gli è successo, alle telefonate mute che continuano ad arrivare. Ho paura e più ci penso più la paura aumenta. Ma non mi sono arreso, ormai non mi posso più tirare indietro. Ciao. Scusa, tu studiavi con Fausto? Sì. Riconosci questo ragazzo? No. Sì, aspetta, è venuto qua fuori da scuola il lunedì prima dell'omicidio, sì, mi ha fatto un sacco di domande su Fausto. Sei sicura? Sì, è il ragazzo della foto. Grazie. Allora è tutto vero. Allora questo Carreri c'entra davvero qualcosa. Devo vedere me. Alle mie spalle arriva il rumore di un... C'è una sinca bianca che avanza di corsa. Sfuggono, ci sto... Cercano me! Liscio sul marciapiede e mi nascondo dietro una macchina parcheggiata. La sinca si allontana. Mi appoggio contro la ruota della macchina. Cosa farei se sapessi che muoio domani? Non lo so. Niente di particolare. E vola, vola, vola, vola, e vola un pallone, schicciano, corbone, mo fammi la prova. E avanti! Adesso stai bene, che cosa vuole? Dovevo tirare in ballo i Tinelli, gli annunci un'altra volta e chiedergli di accedere ai documenti dei carabinieri su via Motore Vosso. Allora? Dottore! Meli! Ah, mi fa tanto piacere la sua visita. E guarda, ci tengo a congratularmi con lei. E che minchia dice? Da quando è entrato nella Digos, lei si è sempre distinto come uno degli uomini più qualificati, no? Allora, io ci tengo a congratularmi con lei per la sua promozione. Promozione? E che cosa? È stato nominato, pensi, commissario capo della Digos di Teramo! E vola, vola, vola, vola, e vola l'uppavone, si c'ha l'ugorbone. Ma non è sicuro. E non è contento? Dottore, per la mia famiglia sarà un trauma. Sono 20 anni che stiamo qua, mia figlia c'è nata a Milano. Ah, vedrà che vi ambienterete subito. Ma poi lo sa cosa dicono dell'Abruzzo? No. Niente! Il cofano! E mi chiudo la porta in faccia! Dottore, c'è una finestra aperta nell'ufficio di Turri. Ah, la finestra aperta. Senta, Meli, se torna a Milano dall'Abruzzo, mi porta quelle belle scamorze che fa là, che sono la fine del mondo. Ma no, questa è maleducazione, eh? Scusi! Turri, la vogliamo chiudere questa finestra, che cosa? Infatti, chiudiamo quella finestra. Senta, Meli, sì. Allora facciamo un viaggio, mi stia bene e mi saluti l'Abruzzo. Tra mano sulla teccia. Vieni, vola, vola, vola, vola. A finestra! Barbara, fai magari, subito! Siete. Prendi l'indispensabile, ti prego! Ma dobbiamo andare! Non lo so, ti devi fidare di me! Cosa guardi? Vedi una sinca bianca? No, non c'è nessuna sinca, no. Ti lascio dai tuoi, torno subito. Non amore, non piangere, ti spiegherò tutto. Devo fare ancora una cosa, ci vediamo più tardi. Ci vedremo presto. Prestissimo. Arrivo in questura con la stessa ansia. E la stessa paura di quando ho conosciuto Barbara, di quando le dovevo dire che mi ero innamorato di lei. Ho scritto tutto. No, non è un articolo, non posso pubblicare questa roba. Ho un dossier per il dottor Meli. Il dottor Meli è stato trasferito a terra. Cazzo. E adesso cosa faccio? Con chi parlo? Chi mi può aiutare? Se vuole lascia lì e glielo spedisco io. No, no, grazie. No. Non lo posso lasciare a te. Tu non c'entri niente con questa storia. Esco dalla questura e sento un vuoto allo stomaco. Vado in macchina verso Porta Nuova. Cerco un ufficio postale. Il mio Murat, vedo un tabaccaio aperto dall'altra parte della strada. Lascio la macchina, attraverso, mi infilo nel negozio e compro. Un pacchetto di Gauloise. Una busta da lettere. Scrivo sulla busta questura di Teramo e il nome del commissario. Lascio il tabaccaio. Attraverso di nuovo. A sinistra non arriva nessuno. A destra si sta avvicinando una macchina. Mi fermo in mezzo alla strada e aspetto che passi. Ma nell'altro senso ora si sta avvicinando un'auto. È la sinca bianca e punta verso di me. Devo raggiungere la mia macchina. Attraverso di colpo e fisso il guidatore. Dai, dai, dai, fermati! Ma lui non vuole frenare. Mi prende sulla gamba sinistra. Sono sdraiato in mezzo alla strada e non mi sento più le gambe. Mi volto di nuovo verso la sinca, un attimo prima che mi passi sopra. Chiudo gli occhi. Sento il cuore che mi scoppia. Una fitta sullo stomaco, l'aria che mi sale in gola di colpo. Come se il vuoto che sentivo al centro dello stomaco esplodesse all'improvviso. Vedo Barbara, al mare, in Liguria, è notte, siamo sulla spiaggia, ci baciamo, è il nostro primo bacio, 8 anni fa, e ancora non gli ho detto quanto la amo. Apro gli occhi. C'è tanta gente intorno a me. Per un istante, dall'asfalto tutto capovolto, vedo la sinca che scappa via correndo. Vedo qualcuno che raccoglie il mio dossier, la busta bianca. Provo ad aprire la bocca, ma non esce nulla. Non c'è più nulla. Vedo ancora qualche gamba. Volto, una mano che copre una bocca, una macchina che passa, come se potesse correre così, sotto sopra, poi vedo più nulla. Sabrina non mi ha parlato per un anno. Questo è un posto di merda, mi ha detto, dopo neanche 10 minuti che siamo arrivati a terra, ma poi non ho più detto niente. Per Mara è stato più semplice ambientarsi. Anzi, dopo un po' si è anche lasciata scappare che terra non le piaceva. E chi se lo aspettava, mi ha detto. Ma infatti a terra non si sta benissimo. È tutto più semplice. Il lavoro è più semplice. La gente è più semplice. Di notte non devo più fare 2 giri del palazzo, non ce n'è bisogno. E anche con Sabrina le cose sono andate bene. Non parlare è stato divertente. Ma quando era piccola, facevamo chi resisteva di più senza ridere. Sì. Un anno senza parlare è stato come parlare molto di più di quando stavamo a Milano. A proposito, ieri mi ha chiamato tu da Milano. Pronto? Commissario! Minchia, ma questo caso ancora lo vuole! Domani raggiungo mia moglie e mia figlia al mare. Tu piuttosto, che minchia ci fai ancora a Milano? Commissario, da quando lei è stato trasferito, sono diventato l'ultimo dato nel carro. Cioè, commissario, dimmi, ha più saputo niente dei 2 ragazzi nel casonetto? Turri, io agli annunci Tinelli non ci ho più pensato, non ho avuto tempo. Guarda, l'unica cosa che so è che un anno fa mi ha chiamato un commissario di Roma, mi ha detto che a luglio dell'anno scorso hanno fermato un neofascista, Sarpi Fabio, detto Fabione, all'interno della sua abitazione hanno trovato materiali riguardanti i 2 ragazzi, delle loro foto e foto dei loro funerali. Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. La stazione di Bologna è piena di gente la prima domenica d'agosto. L'allegria di chi parte per le ferie, il caldo, la voglia di andare al mare, di andare a rivedere parenti e amici, di andarsene un po' in vacanza dalla vita di questo paese, dalle cose brutte che ci succedono qua. Sto guidando solo da un'ora, ma mi sembra di stare in macchina dalla vita. È da quando sono a Teramo che ho ripreso a fumare. Mara ci ha provato a farmi rismettere, ma io questa volta non ci ho dato retta. Non ce la faccio più ad ascoltare. Spengo l'autoradio, ma mentre lo faccio Mi cade una sigaretta sotto i piedi, sul tappetino. Mi abbasso velocemente cercando di non perdere di vista la strada, ma... Dove minchia è finito? Ah, fanculo, ha fatto un buco sul tappetino. Mi tiro su. E davanti a me c'è un camion. Non ho fatto il tempo a vedere. Sento... questa... pioggia di vetro che mi finisce addosso. Sento il rumore del metallo che si piega, un cupo, come il rumore di tutte le cose che non ho fatto e avrei voluto fare. È buio qua dentro. Le serrande tirate giù non fanno entrare neanche un filo d'aria. Da fuori devono pensare che non ci sta nessuno. Sono 20 giorni che sto qui dentro, al giorno della finale dei mondiali di calcio, e mi sono rotto il cazzo, è come se è morto, non si può fare niente, niente radio, niente televisione, niente luce accesa, niente musica, devo stare pure attento a tirare la catena del cesso, posso solo leggere e dormire e leggere, e beve, magna e cagà, ogni tanto mi gratto, è agosto, Bologna è deserta, sembra il cimitero di prima porta. E st'appartamento sembra un fornetto. Ci manca solo che mettano la foto mia sulla porta, come su una lapide. Pure 2 anni fa faceva così caldo. Anzi, forse faceva pure più caldo. O forse era la paura, l'eccitazione di quello che dovevamo fare che mi faceva sudare. La notte prima l'abbiamo passata qui dentro. Non ho chiuso l'occhio, sono stato tutto il tempo con una sigaretta accesa in mano fino alle 5 del mattino. Una sigaretta dietro l'altra. 2 anni sono passati e mi sembra un secolo. E mo però mi sono rotto. E per distrarmi un po' vado in giro per casa. Passo di stanza in stanza, come se ogni stanza è un posto diverso. Ecco, sta stanza... sta stanza è la spiaggia di Capocotta! C'ho 18 anni e sto con Laura! E faccio! E non ci sta nessuno! Laura, se vuoi far bagno, come va? Laura insiste a se spoglia, e spoglia pure io! E lei corre! E lei la segue! Un pezzo di cappello! E lei stronza che fa! Ma comincia a schiacciare! Ride, schizza! Come schizzavo, no! Stai buona! Ma no, che cazzo stai a fare? Ecco, quest'altra stanza è il cimitero dei predappi. C'ho 16 anni e ci sono venuto con Fabione in moto. Non me lo immaginavo così. Anzi, non me lo immaginavo proprio. Della verità non me ne fregavo un cazzo di vedere la tomba del Duce. Ci sono venuto più per fare una gita in moto, per passare una domenica con l'amico mio. Però ora che ci sto, fa un certo effetto. Che cazzo è stato? Mi butto sul materasso e prendo da sotto il cuscino una pistola. Stai scendendo un'anima. Ma tanto che non ci si può nascondere. Sono venuti per me. Mi sono venuti a pigliare. E io sono pronto. Dai, cazzo, che aspettate? Una torcia entra nella stanza. Una luce si fa larga nell'oscurità. E io gli sparo. Quello che è per terra è un poliziotto, cazzo. Qualcuno ha fatto l'infame. La torcia rotola sul pavimento e illumina gli altri poliziotti armati di mitragliette. Fanno fuoco. I pezzetti di metallo che mi entrano nella carne. Li sento uno a uno come se fossero separati da momenti distinti. Braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, palla, petto, stomaco, gamba, gamba, braccio, braccio, spalla, spalla, braccio, fronte, fronte! Mi vengono in mente quei 2 ragazzini che ho ammazzato 4 anni fa. Chissà perché mi vengono in mente proprio loro. Ho ammazzato tant'altra gente nel frattempo. Ma non mi vengono in mente questi 2 ragazzini che ne vengono incontro in quella strada buia. E ho fatto una domanda. E uno dei due mi risponde, quasi sorridendo. Sono io. E sorrido pure io. E poi non vedo più niente. Sono io. Non dormo. Non dormo più. Chiudo gli occhi per qualche minuto, ma non è dormire. Ma è fino la sabbia di questa spiaggia, va. Così fino che ti entra nella pelle. Ma che bella. Stasera poi ti lavo, ti faccio il bagnetto nella bacinella e poi ti schizzo tutto per farti ridere, sì, e poi ti lavo via tutta la sabbia bianca del mezzo alle divina dei piedini e poi ti faccio il solletico, sì, sì, come l'anno scorso a casa della nonna, te lo ricordi? Quando giocavamo sul lettone tu ridevi, ridevi, ridevi che quasi non riuscivi a respirare da tante risate, Come sei bello, Lorenzo, quando ridi. Sei bello. Ridi sempre, Lorenzo. Ridi. Io riapro gli occhi. E quello che vedo non mi piace. Non è il mio mondo questo. Questo mondo io non lo riconosco più. Non è casa mia. Io non posso più vivere così. Maria mi vuole bene, lo so, e le dispiace davvero, ma ogni volta che proviamo a parlare finisce che litighiamo. E allora preferisco star bene da sola, chiudere gli occhi e non guardare più, no. Ma che bella ragazza. E che ci fai tu con una mamma e lui? Venite qua, Vi sedete accanto a me e mi raccontate tutto dell'India, Venite. Ti sei dimagrito. Vi faccio le fettuccine, quelle ad agosto non buone, vi vanno. E dai, venite qua e mi raccontate tutto dell'India, com'è? Avete fatto bene a mollare tutto. Basta Italia, basta sta Milano, basta Leoncavallo, basta politica, basta. Avete fatto bene. Se ero più giovane, sapete che facevo? Ci venivo pure io in India, sì. Sì, sì. Non dormo più, non penso più, non spero più, mi lascio andare, un po' come morire. Lo spettacolo Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio, di Roberto Scarpetti, regia Cesar Bri, con Andrea Bettaglio, Massimiliano Donato, Federico Manfredi, Alice Redini, Umberto Terruso. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Patrizia Schiavo, autrice e regista dello spettacolo Penis Project per umani migliori a Roma, Off Off Theater dal 10 al 15 maggio 2022. Ben trovata. Ben trovato tu, tutti quanti, ciao a tutti. Ce lo presenti? Un gruppo di uomini, prototipi selezionati per rappresentare diverse tipologie maschili, entrano a far parte di un programma che amo definire di terapia sociale, un po' come una sorta di Grande Fratello, se vogliamo, che step by step, seguiti da telecamere a circuito chiuso, come appunto in un reality show, verranno condotti alla liberazione dagli stereotipi, dalle inibizioni, dall'ansia da prestazione, insomma, dalla cultura patriarcale. L'azione si svolge durante la registrazione di un programma televisivo dal titolo appunto Penis Project per umani migliori. Io sarò a condurre i malcapitati in questo viaggio, ho la funzione di conduttrice, sessuologa, a tratti mental coach, a tratti divento persino sciamana, e tra domande scomode, prove di abilità e di riscaldamento inizialmente goliardiche, per arrivare poi a delle prove sempre più incisive, insomma guido questo gruppo in un percorso progressivo che li porterà a confessarsi, a confrontarsi e a mettere in discussione la nostra cultura, che di fatto purtroppo è ancora molto maschilista e sessista. Come era nato tutto? Tutto è partito dal successo del laboratorio della vagina. Mi ricordo che appunto venne a vedere il laboratorio della vagina uno psicoterapeuta, Andrea Bernetti, si presentò e mi disse che era fondatore del CAM, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, era molto interessato al progetto, e io così dietro le quinte gli dissi: guarda, teniamoci in contatto, perché io adesso, appena mi riprendo, inizierò a scrivere il laboratorio del pene. E è nata in questo modo, intanto con la volontà di passare dall'altra parte della barricata, di fare un salto di paradigma e continuare a lavorare sulla violenza di genere, però partendo dal punto di vista maschile. Quindi l'impegno civile e sociale accomuna entrambi i progetti, sempre con l'intento di non cadere nella pedanteria o nella retorica, ma creare discussione, cioè non dare risposte, insomma, no? Ma piuttosto suscitare domande. E è partito tutto da lì. Chiaramente con gli uomini il percorso è stato diverso, no? Perché mentre le donne per loro natura sono facilitate nell'aprirsi, nel parlare, nel mettere a nudo la propria vulnerabilità, sono partita da un presupposto diverso, che con gli uomini non è per niente facile. Parlo da un punto di vista di retaggio culturale, cioè è un problema antropologico culturale quello che l'uomo non si apre facilmente, non si mette in discussione, non accetta di sentirsi vulnerabile, è un retaggio inevitabile, no? E quindi sono partita dal fatto che l'uomo ha più bisogno di gareggiare, di competere, quindi il percorso con gli uomini è un percorso a tappe successive, a prove da superare, inizialmente goliardiche quando si affrontano anche qui gli stereotipi, i tabù, i pregiudizi, le dimensioni, fino ad arrivare ai momenti più seri dove entrano in gioco le storie di ciascuno di loro, insomma, e dove sicuramente il maschio non viene demonizzato, ma anzi si parla di violenza agita e di violenza subita, perché purtroppo l'omofobia e la pedofilia continuano, insomma, a mietere vittime, quindi non c'è una visione univoca del maschio, anzi è molto molto molto sfaccettata. Come hai pensato la messa in scena? È un asettico studio televisivo, molto del lavoro verrà fatto con le luci, sul fondo c'è un grande schermo che proietterà sia i contributi video. All'inizio ci saranno dei contributi video prima di presentare gli ospiti del giorno, ci sono degli estratti dalle puntate precedenti, ci sono dei contributi video di attori che entrano in gioco per ragionare su alcuni temi, per cui l'attore omosessuale che racconta la sua storia può anche per drammatizzare, oppure nel momento in cui si affronta anche la prestazione c'è il medico che dà consigli rispetto al come superare anche la prestazione. Quindi è uno schermo che proietta contributi video, come i servizi, no? Che vengono proiettati in una qualsiasi trasmissione televisiva, ma sullo schermo vengono proiettate anche le stesse immagini degli attori in scena. C'è una telecamera a circuito chiuso che di tanto in tanto rimanda sullo schermo alcune parti dello spettacolo e dà l'idea che è quello che il pubblico vedrà da casa, un'altra telecamera che rimanda invece dei primissimi piani, per dare appunto quest'idea di Grande Fratello, di cavie da esperimento all'interno del programma. Il set è molto essenziale, è costruito come un ring, ci sono dei cubi che sono le postazioni degli attori in gara, perché a volte fanno delle vere e proprie prove anche di abilità, memoria, quando gli chiedo nomignoli e che vengono attribuiti al loro organo genitale, si mettono le cuffie come qualsiasi concorrente di una gara TV, e poi ci sono invece degli attrezzi, chiamiamoli attrezzi ginnici, attrezzi da palestra, che sono curiosi perché ci saranno dei falli priapici dove a un certo punto io chiederò di indossare i falli priapici, no, per ritrovare la virilità, il potere generativo, la fiducia, il coraggio e di entrare nei rituali. Quindi si passa dallo studio televisivo vero e proprio, luminoso, colorato, a momenti invece più teatrali, più intimi, insomma è molto vario. Io per mia natura amo mescolare diversi generi, no? La commedia, la tragedia, l'alto, il basso, il teatro di impegno civile, il teatro terapia, l'interazione con il pubblico, quindi è estremamente vario, sia nel genere, sia nei ritmi, sia nei colori, insomma c'è un sacco di roba, ecco. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Off of Theater, lì c'è la possibilità di prenotare. Ricordo gli attori che sono con me: Antonio De Stefano, Roberto Fazzioli, Dario Guidi, Eugenio Marinelli. È uno spettacolo se vogliamo trovare una nuova relazione tra i sessi, una nuova cultura della parità e del rispetto. Lo spettacolo Penis Project per Umani Migliori a Roma all'Off of Theater dal 10 al 15 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e regista Patrizia Schiavo. A presto. Grazie a te, a presto, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Con Paolo Piacentini, uno degli ideatori del Cammino per un Nuovo Umanesimo, dal 9 al 21 maggio 2022. Ben trovato Paolo. Ciao, ciao a voi, ben trovati a voi. È preceduto da un manifesto il Cammino. Sì, abbiamo messo in piedi un manifesto del nuovo umanesimo, che quindi è sganciato in parte dal Cammino, nel senso una cosa che poi comunque va oltre a questa dimensione del trekking, e perché avevamo con questo mio amico Monaco Zen in mente ormai da tanto tempo, già prima della pandemia, insomma già qualche anno prima, di dedicare un Cammino a queste figure per noi comunque erano molto importanti, Davide Lazzaretti, ma anche Ernesto Balducci, insomma, che sono state persone, soprattutto Balducci ovviamente è stato una persona che ha dedicato tutta la sua vita anche ai temi della pace, e quindi volevamo mettere in piedi un cammino, un manifesto, insomma, che portasse le persone a riflettere su come riprendere il contatto con se stessi, col mondo, con l'altro, il tema dell'altro, per esempio, in Balducci è molto forte, e chiaramente poi con la pandemia questa riflessione diventa ancora più forte. Noi abbiamo detto, allora, questo cammino che unisce due luoghi simboli importanti che legano soprattutto la figura di Davide Lazzaretti, il famoso Cristo della Miata, questo barrocciaio visionario, utopista, preso per folle, insomma, che unisce appunto il luogo di nascita Arcidosso, il luogo Monte Labbro, un luogo pieno di energia, insomma, che sta vicino all'Arcidosso, nel comune d'Arcidosso, dove lui ha messo in piedi questa comunità di geocittà biblica nella seconda metà dell'Ottocento, unisce appunto invece il luogo di Montorio Romano, nel parco di Monti Lucredi, dove lui si è rifugiato per due anni in una grotta, in una sorta di eremo abbandonato, e ha vissuto due anni lì dopo che il Papa Pio IX l'aveva incontrato, ma poi preso in giro, insomma, quindi lui ha dovuto andarsene in questo luogo. Quindi abbiamo deciso di collegare questi due luoghi, e quindi il manifesto è appunto legato un po' a questi temi del ritorno, se vogliamo, a un ascolto più profondo di noi, e il cammino invece è legato anche a una riscoperta dei territori che hanno, soprattutto in quella zona, dalla Miata, passando poi per Castellazzaro, Orvieto, il Museo del Fiore, a Torre Orsina, la zona di Amelia, Narni, tutta la Sabina, hanno dei legami molto forti con la dimensione spirituale a 360 gradi, cioè sono, che ne so, delle realtà legate al monachesimo di un certo tipo, molto aperto, c'è tutto il discorso anche del buddismo, ma ci sono anche esperienze laiche molto belle, molto interessanti, soprattutto di giovani che sono tornati a vivere questi territori con un'idea diversa di sviluppo, un'idea diversa di rapporto col territorio, appunto. Quanto distano tra loro queste due mete e quali saranno le tappe del cammino? La distanza è di circa 250 chilometri, ci tengo a dire che questo tra l'altro è un cammino che noi abbiamo fatto su base puramente volontaria, molto probabilmente ci rimetteremo pure perché abbiamo volutamente non chiesto quota a nessuno, chiunque viene si deve sentire parte di un cammino collettivo, e le tappe sono: la prima è Arcidosso Santa Fiora, poi Santa Fiora Castellazzara, Castello Azzara, Acqua Pendente, Torre Arfina, dove c'è anche il Museo del Fiore, dunque la Dio è Torre Arfina, anche se poi si passa anche Acqua Pendente, e poi c'è Orvieto, Montecchio, entriamo nei Monti Amerini, c'è Amelia, Narni, poi Consigni, Collevecchio, Poggio Misteto, Fara, fino ad arrivare a Poggio Moiano e poi Montorio, dove tra l'altro Montorio Romano il 21 maggio, perché il cammino è dal 9 al 21 maggio, ci sarà una festa finale molto grande con artisti e forse mi sento di non dirlo, la partecipazione di Cristicchi, perché lui è molto legato sia ai minatori della Miata che alla figura anche di Davide Lazzaretti, insomma. Per chi salta alcune tappe è possibile poi recuperarvi? Sì, addirittura si può fare anche una tappa, due tappe, per esempio ci sono molti che vengono dietro perché lì è raggiungibile con il treno e camminano, che so, il venerdì, ad esempio vanno a Montecchio, poi fanno tutto il weekend fino a Narni. Ecco, ci vengo a dire quindi che l'importante è che si auto-organizzano, vedono bene gli orari e poi possono scrivere su piacentinicammina@gmail.com per chiedere informazioni, se invece hanno Facebook possono andare su Partecipanti Cammino per il Nuovo Umanesimo, chiedono di iscriversi perché è un gruppo chiuso, ma noi quando partiremo continueremo, diciamo, a promuovere, a mandare foto, a parlare di questo nostro cammino che vogliamo appunto che sia il più possibile legato col territorio. Ci ospiteranno a volte la sera, che ne so, le proloco per darci da mangiare, o ci saranno incontri con associazioni, con cooperative di comunità, con giovani, insomma vogliamo che sia un cammino davvero partecipato anche col territorio, insomma. Come funzionerà ogni singola tappa? Si parte verso le 9 di mattina, ci sarà un pulmino d'alto che ci segue, quindi si potrebbe portare una borsa e poi si cammina con un zainetto leggero. Queste informazioni comunque poi io le do continuamente anche in questi gruppi che vi ho detto, e si parte la mattina e si arriva verso il pomeriggio, in modo che la gente si può riposare. Le tappe sono dai 20 km, 25, dipende, insomma c'è una tappa un po' lunga dove faremo dei trasbordi, quella di Acqua Pendente, insomma, che poi tra l'altro questo diventerà un cammino strutturato, per cui molto probabilmente si aggiungerà una tappa a questo cammino, diventerà un cammino permanente, ecco. Noi lo faremo ogni anno per promuovere i primi anni, poi sarà un po' come il cammino delle terre mutate, cioè un cammino che nasce da un'intenzione, da un'idea, tra l'altro ripercorriamo tracce già esistenti, cioè uniamo, facciamo rete con cammini, con pezzi di cose del CAI, insomma già esistenti, c'è questo filo conduttore appunto di incontrare il territorio in un certo modo, e poi dopo ognuno potrà percorrerlo come vuole, perché noi abbiamo già messo in piedi una mappa, faremo un sito internet e quindi molto probabilmente uscirà anche una guida nel tempo. Io parto il 9 ad esempio, siamo un gruppetto di almeno 10-15 persone, se lo fa proprio tutto, poi gli altri si alterneranno. Io parto il 9 e arrivo il 21, si cammina tutti i giorni, si fanno 13 giorni di cammino dietro l'altro. Il cammino per un nuovo umanesimo dal 9 al 21 maggio 2022, un saluto e un ringraziamento ad uno degli ideatori, Paolo Piacentini. A grazie presto. Federico, grazie a te, ciao, grazie a voi, ciao. Siamo all'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali. Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, dici un po'. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa settimana andare a teatro non sarà proprio semplicissimo, perché insomma è una settimana un po' poco reattiva, ecco, Roma sta piano piano finendo le sue programmazioni, c'è qualcosa sparsa in giro, però anche cose interessanti. Andiamo subito a vedere. Tanto, Teatro Argentina, La Tempesta di Alessandro Serra rimane fino a domenica, il 15, per chi non l'avesse visto, mentre invece possiamo andare, per esempio, al Teatro Tor Bella Monaca, dove 13-15 maggio andremo a vedere Amare Cannibale, i 9 mesi della vita di madri e figli e figlie, non so bene come leggere la sua testo, e regia di Maria Grazia Pompei, con 3 attori in scena, e il tema è quello della maternità, frutto di un percorso di ricerca con interviste a donne di estrazione sociale e culturale diversa, appunto attorno al tema del parto, della maternità. Una riflessione quindi ampia, quella di Maria Grazia Pompei, sul palco del teatro Tor Bella Monaca dal 13 al 15 maggio, e questo direi che è piuttosto interessante da seguire. Teatro Basilica, invece, per questo Generazione Y, questo dittico che chiamiamo in questo modo, con la compagnia Barbapapà Teatro, composto dagli spettacoli Mi Ricordo e L'Arte della Resistenza, 12 e 13 maggio per Mi Ricordo, regia di Claudio Zappalà, mentre invece stesso regista per L'arte della resistenza, che sarà in scena 14 e 15 maggio. Affrontano entrambi temi rappresentativi della generazione Y, appunto quella alla quale apparteniamo, quella a cavallo tra gli anni 80 e 80, di nati fra questi anni, che viene chiamata appunto generazione Y o millennials. La domanda iniziale da quella compagnia parte è: qual è quel posto in cui mi sento a casa? Ecco, la fatica di trovare una risposta è un denominatore comune per tutte le persone che fanno parte di questa ricerca e tendenzialmente proprio della generazione a cui si fa riferimento, di cui mi sento tutto sommato, non dico parte, ma quantomeno fratello un po' maggiore, poco maggiore, ecco, quindi un po' posso capire le ansie, lo smarrimento, le riflessioni appunto di questa generazione in scena sul palco del teatro Basilica per questi due spettacoli dal 12 al 15 maggio, Mi ricordo e L'arte della resistenza. Per quanto riguarda invece il teatro Lo Spazio, 12-15 maggio, Matilde Daccardi e alla regia con in scena Valentina De Giovanni presenta Musicarello Show, Farai come ti pare quando ti sposerai. Italia, 1960, in una piccola cittadina di provincia, una ragazza prigioniera delle rigide regole paterne sogna di essere salvata dall'amore, quello meraviglioso e senza fine di cui parlano le canzoni. Erano appunto gli anni 50, 60, quando i musicarelli invadevano il paese, cioè quei film del boom economico, no? Che con i cantanti di grido del periodo, da Gianni Morandi, Little Tony, insomma, Bobby Solo, ricordiamo solo alcuni, andavano in scena questi film cantati che venivano poi in televisione, e quella era un po', diciamo, l'immagine dell'Italia di quegli anni. E quindi Matilde Daccardi replica e rievoca un po' quell'atmosfera, la musica dello shock, sul palco del teatro Lo Spazio dal 12 al 15 maggio. Al Teatro Arcobaleno continua un classico, Harold Pinter, Il Guardiano, che sta in scena fino al 15 maggio, la regia di Alessandro Carvaruso. E così come continua il Teatro Brancaccio Samusà di Virginia Raffaele, che sta avendo un discreto successo a quanto mi dicono, mentre invece questa settimana Penis Project, il lavoro di Patrizia Schiavo, dal 10 al 15 maggio, quindi da questa sera, sul palco del Off Off Theater. È l'opera di Patrizia Schiavo che appunto aveva iniziato il lavoro sulla violenza di genere con Il laboratorio della vagina, in questo caso va a riflettere sull'organo sessuale maschile, per riflettere insomma su sul tema da un punto di vista decisamente opposto, e quindi entrando nella cultura patriarcale, l'ansia della rappresentazione, le inibizioni, gli stereotipi del maschile, della sfera del maschile. Dal 10 al 15 maggio Off Off Theater con Penis Project. Qualche altra cosa ancora? Sì, un paio di informazioni importanti. La prima è che c'è questa settimana, dal 12 al 15 maggio, come abbiamo già visto, in macchina il Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, e sarà nei teatri in comune, quindi precisamente Quarticciolo, Torbella Monaca, Villa Panfili e Lido di Ostia. Vado a ricordare un po' di appuntamenti. Celeste, questa produzione tratto da storie fantastiche della mitologia greca, insomma attraverso immagini pittoriche, poetiche, le marionette, il teatro delle ombre, sono in scena sia a Quarticciolo che al Lido di Ostia, sia a Torbella Monaca. Insomma, invito ad andare sul sito teatrincomune.roma.it per il programma completo. Insomma, ci sono un po' di lavori, verranno a Roma anche compagnie celebri del teatro di figura, teatro gioco vita, TAM, teatro musica, il teatro delle briciole, Merlin Park Theater, insomma alcuni protagonisti della teatro di figura internazionale. Quindi questo per quanto riguarda immagini del Festival del Teatro di Figura. Ultimo appuntamento che andiamo a ricordare è il lavoro di Leonardo Manzan, miglior spettacolo alla Biennale di Venezia 2020, che sarà in scena al Teatro Vascello. Si chiama Glory Wall, è stato scritto insieme a Rocco Placidi, entrambi sono in scena con anche altri attori, e si tratta di un lavoro intelligente, ironico, con l'idea del censurare se stessi e gli altri. È un gioco, sappiamo insomma che il Glory Hall è questo muro cui non si può vedere dall'altra parte, no? Che riguarda spesso anche rievoca il contesto del porno e del meccanismo di potere, dell'invisibile, del velo, del pastore, avrebbe detto Hawthorne, e c'è questo gioco attraverso il muro, l'immaginazione che dall'altra parte coglie quello che non si vede, quello che c'è ma non si vede. Si creano immagini, scene che riecheggiano e per molto tempo interagiscono con il pubblico attraverso minuscoli fori. Quindi portare a teatro questa idea è quella che appunto Leonardo Manzano e Rocco Placidi portano sul palco del Teatro Vascello dal 10 questa sera fino al 15 di maggio. E questo è tutto. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.